Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Gorgonzola. La storia di un formaggio nato per caso e dell'azienda che ne produce di più al mondo, di Andrea Ferro. È la storia di un formaggio e di una famiglia, una trama di gusto e di impresa strettamente incardinata nel carattere di tre generazioni, cresciute in terra di pianura, ma con lo sguardo rivolto oltre l'orizzonte, proiettato costantemente verso nuove opportunità e nuovi mercati. È la storia del Gorgonzola, del marchio Igor e della famiglia Leonardi, da tempo azienda leader in questa produzione. Cioè il saggio di un'eccellenza così particolare da solleticare pure palati di altissimo rango. Ce la racconta Fabio Leonardi, amministratore delegato di Igor Gorgonzola, oggi al timone di una realtà imprenditoriale che da più di 80 anni tiene la barra dritta. Nonno a Mezzomerico, quindi tra Novara e le colline premontane del Lago Maggiore, trasformava il latte locale, produceva 50 forme di gorgonzola, però già allora, ecco, il nonno era già un precursore di questo nostro spirito all'esportazione. Parliamo del periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale. Beh, il nonno facevano partire da Novara un treno con delle ceste in vimini, con le stecche di ghiaccio secco, un treno di gorgonzola che andava a Londra. Perché la regina Elisabetta, che abitualmente frequentava il Lago Maggiore, il famoso Des Iles Borromée, lei amava mangiare e voleva sul proprio tavolo tutti i giorni il tipico e lo stranissimo blue Italian creamy che si chiamava gorgonzola, perché loro con lo stilto erano abituati a un formaggio arborinato maduro, asciutto e piccante, ed era rimasta sorpresa. E io devo citare che a 20 anni, quando andavamo alla piscina di Lesa o a fare il bagno sul lago, ci fermavamo in una gelateria Lesa e il gelataio vidi gelato gorgonzola, e così da ragazzotto dissi: ma la mia famiglia fa gorgonzola. E lui fa: ma come la sua famiglia? C'era un signore che veniva col calesse al tempo della guerra, della prima guerra, a portarci gorgonzola per la regina che voleva mangiare gelato. Era mio nonno. Nonno Natale. Quindi una storia che risale, quindi vuol dire che probabilmente avevamo proprio nel DNA questa passione, perché andare su un calesse, con un calesse, sul Lago Maggiore, a portare magari 3 chili di gorgonzola per fare un gelato, vuol dire aver passione. Per situare le origini del gorgonzola dal novarese, occorre spostarsi un po' più verso Milano. Origini che profumano di leggenda e che rimandano ai tempi di Manzoni. Origini infarcite di distrazioni e di miracoli che si trasformano in grandi occasioni, quasi un'alchimia di circostanze e di sapori. Storie e incroci di frati francescani e di esperimenti condotti un po' per caso, fino a trovare la formula che ha reso questo formaggio un alimento dalle caratteristiche nutrizionali uniche. Si dice che sia stato a Gorgonzola un pastorello che aveva dimenticato in una casa rurale di campagna con tanta muffa sulle pareti, quindi dove c'era in una zona ricca di foraggio e di muffe, aveva dimenticato la cagliata di qualche giorno prima e aveva sovrapposto poi la cagliata di 2 giorni dopo, che aveva fatto un attimino pelle. Da lì l'aveva dimenticato in questa struttura di campagna, e dopo un mese è tornato, ha visto questo prodotto che aveva fatto muffa, l'ha aperto, l'ha tagliato e ha visto che in corrispondenza della fessurazione delle due paste si era sviluppata questa arborinatura. E da lì cominciarono prima i frati francescani, diedero corso, che erano i maestri all'epoca nella produzione dei formaggi, a cominciare uno studio per la riproduzione di queste muffe con le forature, e da lì nacque il famoso gorgonzola, che oggi è diventato un prodotto tra i più conosciuti al mondo, ma soprattutto tra i più importanti per quantità prodotte e per quantità esportate. Che ancora oggi nei paesi, soprattutto in queste zone, gli anziani, proprio quegli anziani, dicono lo Strachin. Quindi Strachin si intende gorgonzola. Vanno in bottega e dicono 2 etti di Strachin, 0,5 chilo di Strachin. Da nonno Natale e dagli anni 30, per la famiglia Leonardi il tempo scorre veloce senza perdere un attimo. Dal calesse allo stabilimento, che a Cameri diventa sempre più grande, ai mercati che si allargano abbracciando tutto il globo. Perché, come già aveva intuito nonno Natale, la sfida è guardare sempre più in alto, sempre in grande, abbattendo confini, agguantando ogni opportunità. Ma per riuscirci diventa fondamentale rimanere ancorati alla tradizione, che significa senso di appartenenza al territorio e salvaguardia attenta delle caratteristiche del prodotto. La materia prima è il latte. Va controllato attraverso una serie di analisi in laboratorio che ne definiscono i parametri chimici e organolettici. Il principio è partito dal nonno, Il papà, che aveva un piccolo caseificio artigianale, ha cominciato a vendere, diciamo, in Italia il prodotto, e poi con l'avvento mio, che sono amministratore delegato, mio fratello Maurizio, che è amministratore, direttore industriale, e la sorella Lara, che è la CFO dell'azienda, abbiamo dato un impulso importante, soprattutto con la costruzione dello stabilimento che abbiamo adesso, che è il quartier generale, nel 96. Questo stabilimento è stato ampliato 4 volte, siamo partiti con fatica perché dovevamo raggiungere il break even, siamo partiti a debito come tantissimi imprenditori italiani, però abbiamo creduto nella nostra forza e con tenacia abbiamo creduto nella forza del prodotto, tant'è vero che, per darvi solo dei dati, 20 anni fa il mondo del gorgonzola, il settore, produceva 3 milioni di forme all'anno di gorgonzola. Quest'anno arriveremo a 4.700.000 forme. L'export è esploso. Solo 5 anni fa venivano esportate 15.000 tonnellate di gorgonzola, oggi il settore ne esporta 20.000 tonnellate. Noi siamo leader di mercato, abbiamo una quota del 45%, esportiamo il 55%, siamo presenti in tutti i paesi al mondo. E la grande svolta è quando abbiamo creduto proprio nella forza di questo prodotto. L'abbiamo considerato un prodotto di mass market e presente in tutti i supermercati al mondo, dal Sudafrica, Sud Corea, l'Australia, il Nord America, dappertutto. E devo dire che siamo riusciti a fare un prodotto adatto per essere veramente un prodotto globalizzato. Il gorgonzola di Igor piace da sempre all'estero, dicevamo, e non solo, chiaramente, a teste coronate e principi. Questa vocazione di famiglia a spaziare lontano per rinnovare la sfida e conquistare nuove dimensioni via via ha prodotto risultati sempre più interessanti. Abbiamo un consorzio di tutela, io sono vicepresidente, quindi mi piace molto parlare anche di settore e poi contestualizzare la Igor in questo ambito. Allora, il settore esporta il 36%, è una quota che si è molto alzata, ma si è alzata proprio tutta la produzione del gorgonzola, e noi come Igor abbiamo una quota importante perché siamo un'azienda che esportiamo più del 50% e abbiamo una quota di mercato vicino al 50% della produzione totale. Abbiamo 4 siti produttivi, uno in Valsesia dove produciamo il nostro Gran Riserva, prodotto di altissimo livello, con latte prodotto da mucche no OGM, siamo l'unico caseificio che ha 12 aziende agricole che producono con latte no OGM, e quindi, diciamo, è voler credere anche in un prodotto che ha bisogno anche su qualche mercato di essere, tra virgolette, modernizzato e adatto alle nuove tendenze e agli stili di consumo. La nostra industria agroalimentare, per meglio dire il Made in Italy a tavola, è una locomotiva che tira un pezzo significativo dell'economia del paese. Il comparto genera un valore aggiunto di quasi 59 miliardi. Nel club esclusivo delle 4A delle nostre eccellenze produttive, cioè abbigliamento, arredo, automazione e appunto agroalimentare, si tratta del valore più alto. Il processo di lavorazione e trasformazione dei prodotti alimentari occupa 465.000 addetti, cioè l'equivalente di quasi un quinto dell'occupazione complessiva dell'industria manifatturiera. In tutto le imprese del settore sono poco meno di 7.000. Nel periodo 2001-2016 la produzione di food and beverage è cresciuta del 5,6% a fronte di un calo complessivo della produzione industriale del 20%. Quindi una spinta in avanti che ha saputo scansare anche la crisi. Nel 2016 il valore dell'export ha superato i 30 miliardi. Io ho 30 anni che giro per il mondo a vendere, faccio fiere, e quindi devo dire che conosco abbastanza l'evoluzione. Beh, innanzitutto è stato fatto un salto qualitativo importantissimo, perché comunque le aziende tutte, in tutti i settori, hanno aumentato il livello qualitativo, e questo merito ai miei amici concorrenti e colleghi dell'agroalimentare. Certamente nel mondo adesso c'è molta più consapevolezza e la voglia d'Italia rispetto a 30 anni fa. Prima si faceva molto fatica, adesso invece si trovano, io direi dagli ultimi 5, 6, 7 anni, ci sono tutti i buyer internazionali che cercano già il prodotto, il top di qualità, quindi anche nel gorgonzola come in altri prodotti, la linea già premium particolare, e poi hanno bisogno il prodotto standard per fare massa critica. E così un po' tutto l'agroalimentare si è sviluppato. Sugli scaffali della grande distribuzione del mondo troviamo tantissimi prodotti italiani, però troviamo anche tante imitazioni. Perché ci imitano? Perché italiano vuol dire, ormai c'è proprio un concetto di qualità, di materie prime pulite, sane, buone, dell'Italian style, cioè di immaginarsi, di medesimarsi nello stile di vita italiano, che vuol dire dieta mediterranea, una dieta che garantisce longevità, qualità, soddisfazione e appagamento organolettico esagerato rispetto ai prodotti che abbiamo in giro nel mondo. Ma al di là dell'Italia, in quali paesi il gorgonzola piace tanto? Sentiamo ancora Fabio Leonardi. I paesi che mangiano più gorgonzola sono i soliti che assorbono la maggior parte dell'agroalimentare italiano. Quindi in primo abbiamo Germania, Francia, cito con soddisfazione la Francia, è da 6-7 anni che cresce a doppia cifra tutti gli anni. Bel derby, se teniamo conto che in Francia abbiamo tutti i, non voglio citarli, però ne abbiamo di blue cheese. Quindi il fatto di crescere il 10% con una grande distribuzione che ci boicotta abbastanza, però nell'Oreca siamo fortissimi e questo mi dà grandissima soddisfazione. Poi abbiamo i classici UK che stanno andando molto bene, Paesi Bassi, Svizzera e l'Est Europa. Io vorrei citare la Polonia e la Romania. La Polonia ha avuto uno sviluppo nel ranking di export del gorgonzola, è passata al sesto posto. La Spagna è cresciuta tanto, paese caldo, quindi con una tradizione di formaggi duri e saporiti. Il gorgonzola oggi è in tutti i supermercati e siamo passati da 600 tons annui di 3 anni fa a 1000 tonnellate. Quindi queste sono delle performance importanti che ci danno coraggio, ci danno forza e ci danno la forza anche di investire come stiamo facendo. E guardando verso l'estremo oriente ci sono altre terre da prendere per la gola. Il mercato cinese è un mercato che dobbiamo osservarlo con grande attenzione, perché non dimentichiamoci, io vorrei citare l'esempio del gorgonzola per esempio in Sud Corea il mercato del gorgonzola era zero fino a 10 anni fa. Oggi la Sud Corea è un mercato dove il gorgonzola è diffusissimo in tutti i supermercati, siamo arrivati a tonnellaggi veramente importanti. E questo ci fa sperare anche per la Cina, perché sì che la Cina oggi veramente è un mercato piccolissimo, però potrebbe diventare come la Sud Corea di oggi rispetto a 10 anni fa. Quindi dobbiamo crederci, dobbiamo investire, dobbiamo avere coraggio e abbiamo bisogno di fare squadra con i nostri politici su questi mercati. Questa e altre storie, in anteprima, inedite o in versione estesa, ma anche idee e novità per l'impresa, potete trovarle sul sito radio24.it, cliccando sulla pagina programma Voci di Impresa. E curiosando nella sezione Extra, a cura di Anna Marino, potete scrivere i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di Impresa è anche Voci di Piccola Impresa, su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa. A domenica prossima!